alzarmi, maledetta la luce che entra da fessure. Apro la finestra e preparo un caffè, riordino le cose mentre penso un po' a te, a tutti i tuoi capricci e pisticci. È un po' che mi conosci e non capisci che sto cercando un senso a questa mia esistenza. Il bicchiere è mezzo vuoto e quasi perso la pazienza. Sono arrivato a 30 senza fare finta che tutto è sempre bello, anche col culo a terra. Cerco la svolta nella vita quotidiana, punto su me stesso, voglio carta filigrana. Sai, è per questo che ogni tanto mi perdo nel mio mondo e che cerco le parole, i colori dello sfondo per cancellare il grigio di nottate in bianco, di piccole marchette e soldi sotto banco. Ma adesso sono stanco. Stare insieme a te è stata una partita. Sei scivolata via come sabbia tra le dita. Resta qui vicino, non andare via, perché se vai adesso la colpa è solo mia. La colpa è della strada che ha rapito i miei pensieri, attimi di gioia e poi tempi troppo neri. Resta qui vicino, non andare via, perché se vai adesso la colpa è solo mia. La colpa è della strada che ha rapito i miei pensieri, attimi di gioia e poi tempi troppo neri. Quando ero piccolo sognavo di stare sopra un palco, la gente esultava con le mani in alto. Invece eccomi qua nel solito quartiere, io e l'underground per sempre sempre insieme. Ma ogni tanto chiudo gli occhi e disegno i tuoi contorni che rimarranno belli anche anni dopo anni. Maledetto il tempo, ma non può dividere quello che per sempre devi vivere. Ridere e piangere è il senso della vita, una lunga strada che va sempre in salita. Attimi di gioia per amara tristezza, lacrime e sorrisi, un pugno e una carezza. E questo pomeriggio il cielo è tutto azzurro, ma ogni secondo è lento e sembra duro più del ferro. Nel cuore sento freddo e non mi scalda il giorno, e non dirmi calmo se fuori è sempre inverno. Stare insieme a te è stata una partita, sei scivolata via come sabbia tra le dita. Resta qui vicino, non andare via, perché se vai adesso la colpa è solo mia. La colpa è della strada che ha rapito i miei pensieri, attimi di gioia e poi tempi troppo neri. Resta qui vicino, non andare via, perché se vai adesso la colpa è solo mia. La colpa è della strada che ha rapito i miei pensieri, attimi di gioia e poi tempi troppo neri. L'amore è un'utopia, in questa odissea scivola via l'ultima lacrima che m'han portato in dono. Frasi ormai già fatte, già sentite, non esiste perdono, esiste solo un cuore che ci arrabbia. Faccio viaggi nell'inferno, manco fossi Dante. Poi quando ritorno faccio a pugni col presente. Sì, sempre la stessa storia, come dici tu. E questo pomeriggio il cielo è tutto azzurro, ma ogni secondo è lento e sembra duro più del ferro. Nel cuore sento freddo e non mi scalda il giorno, e non dirmi calmo se fuori è sempre inverno. Resta qui vicino, non andare via, perché se vai adesso la colpa è solo mia. La colpa è della strada che ha rapito i miei pensieri, attimi di gioia e poi tempi troppo neri. Resta qui vicino, non andare via, perché se vai adesso la colpa è solo mia. La colpa è della strada che ha rapito i miei pensieri, attimi di gioia e quei tempi troppo neri. Stare insieme a te è stata una partita, sei scivolata via come sabbia tra le dita.